24 mattino. Visto che Regeni è stato mandato in Egitto da un'università inglese, non sarebbe giusto che pure loro si dessero da fare per arrivare alla verità? Io ritengo che non ci sia niente di onorevole nell'assumersi la responsabilità quando sai perfettamente che tanto non ti succederà assolutamente niente. Quindi è facile dire mia la colpa perché la scelta politica di non aver fatto la zona rossa. È mia la colpa se con Regeni ancora non abbiamo raggiunto un tubo. È mia la colpa se sto sfasciando l'Italia, però tanto rimango lì, non me ne vado e non mi farà mai niente nessuno. Troppo facile, sono capaci tutti. In agricoltura la regolarizzazione non funziona perché il soggetto che lavora in nero ed è irregolare, nel momento in cui emerge, perderà quel lavoro in nero che ha svolto fino a quel momento e non otterrà in cambio un contratto regolare. Molto semplice e lineare. Caro ascoltatore, e questa è una posizione interessante, dovremo tornarci su questo tema della sanatoria e di cosa effettivamente non sta funzionando su quel fronte. Per quanto riguarda la seconda ascoltatrice, in riferimento ovviamente alle scuse arrivate ieri dal Presidente del Consiglio che dice ho incontrato io Al-Sisi, quindi non prendetevela con l'ambasciatore, con chi lavora in Egitto, la colpa è mia se non siamo ancora arrivati ad una verità, e dice lei, insomma, un po' troppo facile. Io ripeto, io non condivido questo, nel senso che quando un politico si prende le sue responsabilità, quantomeno in termini anche solo dicendolo, è un buon elemento, perché poi consente di aprire la riflessione su che cosa si è sbagliato, mentre invece quando dici no, ho fatto tutto giusto, è tutto perfetto, non abbiamo sbagliato niente, è il momento nel quale non si riesce a ragionare, si va in muro contro muro, non si apre una discussione. E poi la questione di Cambridge è una questione un po' frusta. Sì, potrà impegnarsi anche Cambridge, ma amico mio, ma che vuoi che faccia Cambridge con il regime di Al-Sisi, in tutta franchezza, per ottenere la verità? Posto che tanto abbiamo ragionato su quali responsabilità possa avere quell'università nell'aver mandato Giulio Regeni, lo abbiamo detto, nell'aver mandato Giulio Regeni là, senza forse dare una chiara percezione dei rischi, anche di quello si è discusso, e posto che, lo ribadiamo ancora una volta, non è che l'università avrà le sue responsabilità, Cambridge avrà le sue responsabilità, ma non è che è Cambridge ad aver torturato e ucciso Giulio Regeni, quindi ricordiamocelo sempre, è stato il regime, presumibilmente il regime egiziano. Sono le 7:23 minuti e 46 secondi, è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è venerdì 19 giugno, al microfono c'è sempre Simone Spezia e siamo appunto alla lettura dei giornali, partendo dalle aperture, come sempre, che sono in gran parte dedicate, come prevedibile, alle parole di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella sulla questione della giustizia. Ci arriveremo più avanti con Paolo Mieli, e però i titoli sono questi. La Repubblica, Mattarella, basta scandali, giudici, meritatevi la fiducia. Il Corriere della Sera, più duro, il Colle striglia i magistrati. Il Messaggero, le toghe tornino credibili, e qua sono il virgolettato di Mattarella. Il Giornale mette insieme i due elementi, perché c'è stato un doppio intervento ieri di Mattarella sui magistrati e sui fondi europei. Le picconate di Mattarella è il titolo. Avviso a Conte, usa i fondi europei e fai presto. Avviso ai giudici, inaccettabile degenerazione. Il Quotidiano Nazionale apre sulla sua battaglia, che è quella per tenere aperto il Parlamento quest'estate. Appello accolto, il Senato non chiude. Conte vuole il bonus vacanza, il titolo della Verità, la sindrome dell'uomo solo al comando. Il premier è terrorizzato che le camere restino aperte anche in agosto. La sua maggioranza traballa e l'incidente è dietro l'angolo. E quindi, come vedete, è un po' lo stesso tema del Quotidiano Nazionale, su un altro fronte. Aperture economiche, ovviamente, per il Sole 24 Ore, che ci porta su un settore del quale poco ci si è occupati in questo periodo. Auto, a rischio il 40% dei concessionari. il 40%, con un settore auto che perde il 36,9% negli ultimi 4 mesi, il 36,9%. La Stampa apre un altro fronte, l'allarme per l'Italia, meno soldi dall'Unione Europea, al vertice di Bruxelles il recovery fund rivisto al ribasso, decreti sicurezza e dignità e scontro. Il Fatto Quotidiano sceglie il tema dell'ospedale in fiera, quello della regione Lombardia che è vuoto, la regione butta altri 7 milioni, è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Manifesto, il ricatto è di moda. E l'apertura è sulla Casa della Moda Roberto Cavalli, che impone ai 170 dipendenti dello storico stabilimento di Sesto Fiorentino, in gran parte donne, il trasferimento coatto a Milano. Unica alternativa, il licenziamento. E qua sciopero e presidi in fabbrica. Infine Avvenire, populisti bocciati, la Corte Suprema dà torto a Trump sulla revoca dei diritti ai baby immigrati e la Corte di Giustizia Europea condanna Orbán per le leggi contro le ONG. Questo è il quadro dalle aperture dei quotidiani. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, in questo caso correlato a Covid-19. E il primo punto sul quale vi voglio portare, per quanto è un tema che abbiamo già toccato qua a 24 mattino e che però non si è esaurito, non è che il fatto che l'abbiamo toccato una volta fa sì che questo tema si esaurisca, anzi. E il tema qual è? È il tema delle visite arretrate. Oggi il quotidiano La Repubblica, nella sua edizione milanese, ci porta all'esempio milanese. E chiaramente siamo in una delle zone più colpite da Covid-19, dove le restrizioni sono iniziate prima, e però guardate che i numeri sono impressionanti, impressionanti. 20.000 solamente nell'ospedale di Niguarda, 20.000 visite arretrate solamente in un presidio ospedaliero, racconta Alessandra Corica, appunto nella pagina 3 della cronaca milanese. È la nuova grande emergenza negli ospedali, perché gli esami e le visite rimaste indietro, saltate a causa della pandemia e adesso da riprenotare, sono decine di migliaia. Prendiamo Milano a fare da esempio, perché il problema è vivo in molte altre città. Ma al tempo stesso si deve riuscire a dare un appuntamento anche a chi non ne aveva fissato uno prima. Eccolo il nuovo fronte caldo della sanità lombarda a seguito della pandemia da Covid-19. Le liste d'attesa per ottenere una visita specialistica oggi negli ospedali prevedono code fiume. Solo al Niguarda si calcola che circa 20.000 prestazioni siano state rimandate durante il lockdown, tra visite, controlli ed esami strumentali, ora debbono essere recuperate. Al San Raffaele 20.000 pazienti, anche qua 20.000, hanno visto il loro appuntamento rimandato, oggi ne sono stati riprenotati 1.500. Il problema non riguarda le prestazioni urgenti e quelle oncologiche che non si sono quasi mai fermate, ma quelle con priorità D, programmabili a distanza di settimane, ma ora difficilissime da fissare, perché se è vero che gli ospedali a poco stanno tornando fino al 70% della loro attività pre-Covid, è anche vero che le regole per evitare una ripresa dei contagi sono inflessibili, tradotto pochissime persone ammesse nelle sale d'attesa e tempi di ciascuna visita allungati, visto che si devono considerare anche i minuti per la sanificazione e gli spostamenti in sicurezza. E un altro fronte che si apre, e ce lo racconta a pagina 13 il giornale, è quello delle RSA, come ben sapete, fronte importante del contagio, fronte importante delle vittime, spesso non contate, di Covid-19. Il rischio è la corsa ai rincari e soprattutto gli ingressi bloccati. In base al rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, racconta Maria Sorbi appunto sul giornale, solo il 5,3% delle strutture ha la possibilità di isolare i pazienti sospetti Covid. Il 30% li può raggruppare in stanze protette. Di contro, all'interno degli istituti il 40% dei letti è vuoto per la conseguenza dei nuovi ingressi bloccati e dei decessi Covid, nonostante le lunghe liste d'attesa per poter portare appunto i parenti anziani all'interno delle RSA, le quali per i primi 14 giorni dalla riapertura potranno occupare non oltre un terzo dei posti letto e arrivare solo a due terzi nei successivi 14. Idem per i solventi a tariffa piena, con procedure di accettazione molto rigide, tamponi e isolamenti pre-ricovero e ovviamente molte famiglie che a questo punto rischiano di rimanere senza assistenza. E sempre a proposito di Covid, il Sole 24 Ore a pagina 8 ci porta su questa pessima abitudine della pubblica amministrazione di pagare in ritardo i fornitori, e qua si parla dei fornitori del settore della sanità, e la situazione di Covid-19 non ha migliorato molto. Innanzitutto c'è un quadro generale, eh? 9 ministeri su 12 sono in ritardo sui pagamenti alle aziende fornitrici della pubblica amministrazione. Al Viminale si arriva, al Ministero dell'Interno, ragazzi, il Ministero dell'Interno 93 giorni, che già tutto sommato, insomma, diciamo, sono 3 mesi. Ma i dati impressionanti sono quelli che riporta Marzio Bartoloni in un pezzo qua accanto, e che hanno a che fare con la sanità. Innanzitutto i numeri degli arretrati, le cose da pagare che le aziende sanitarie locali devono pagare ammontano a 1.900.000.000 solamente per i dispositivi medici. In Campania sono 200.000 euro, in Lazio 180.000, e i ritardi arrivano a dei livelli impressionanti. La pubblica amministrazione dovrebbe pagare entro 60 giorni, paga in media dopo 100 giorni, ma ci sono dei casi incredibili. La ASL di Crotone paga dopo 434 giorni, quindi se siete un fornitore della ASL di Crotone, fatevi un segno della croce, perché fa prima l'azienda a fallire che la ASL a pagarvi. In una Calabria che ha una media, la media delle ASL calabresi paga a 300 giorni, praticamente un anno, mentre il Friuli per esempio riesce a rimanere nell'ambito di quello che è lecito, riesce a pagare entro i 60 giorni. Tutte le altre amministrazioni sono in ritardo, chi di meno, chi di più, ma la Calabria è veramente impressionante. Le ultime due cose sulle quali vi voglio portare hanno a che fare ancora con i provvedimenti del governo e con i problemi aperti. L'ecobonus, che racconta, scrive il giornale a pagina 9 con Marco Lombardo, è un bluff, conviene non richiederlo, il famoso ecobonus al 110%, perché il giornale pesca in realtà quello che era un pezzo uscito online sul Corriere, un pezzo di fact checking su, appunto, sul bonus. Il decreto fissa il tetto del rimborso a 60.000 euro, ma un decreto legge del 2016 limita a 100 euro per metro quadro di facciata il massimo che si può richiedere, e quindi già qua inizia il casino. Secondo i calcoli fatti dal Corriere, ad un condominio costerebbe di meno accedere al bonus del 65% piuttosto che chiedere quello da 110. Quindi questo per darvi l'idea di come succede in questo paese quando le norme si affastellano e si incrociano. E un altro esempio ci arriva dal pezzo a pagina 11 della Repubblica, firmato da Valentina Conte: le acque agitate in casa INPS perché ieri sono partite le nuove domande per ulteriori 9 settimane di cassa integrazione, con una novità: la richiesta di cassa in deroga non passa più per le regioni ma va spedita all'INPS. Se però l'impresa non ha esaurito le prime 9 settimane di cassa integrazione, allora deve ancora rivolgersi alle regioni. Non ci si capisce, rido, però insomma avete capito, una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Oh, a proposito dell'ecobonus al 110%, vi segnalo che oggi il Sole 24 Ore ha 4 pagine nelle quali potete sapere tutto quello che volete, sapere sull'ecobonus e non avete mai osato chiedere. Le trovate in 4 pagine interne sul Sole 24 Ore. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Inizierei da Mattarella, Mattarella, sì. Allora iniziamo da Mattarella dicendo che giustamente il Sole 24 Ore, siccome ieri Mattarella ha rilasciato 2 bombe, ha scaranciato, una contro la magistratura e una di fatto contro la maggioranza. Dicevo, giustamente il Sole 24 Ore dedica 2 articoli separati, uno a pagina 11 di Giovanni Negri, Mattarella, la magistratura superi la degenerazione delle correnti, il secondo a pagina 2 di Manuela Perrone, Mattarella incontra il governo, risposte rapide sui fondi UE. Se tu mi autorizzi, le esaminiamo separatamente. Sì, prima... autorizzo, ok. Hai il visto. Sei un po' severo, però io lo prendo il visto. La prima è quella che è quella della magistratura, che domina su tutte le prime pagine dei giornali, colle, strilla i magistrati, gravi distorsioni, serve credibilità, Mattarella basta scandali, giudici, meritatevi la fiducia, sto leggendo la prima pagina del Corriere della Sera e della Repubblica, ma tutti i giornali danno grande enfasi, il giornale, le picconate di Mattarella, avviso a Conte, ma questa è la seconda cosa, ai giudici, inaccettabile degenerazione, è la seconda, questo lo segnalo io, è la seconda uscita di Mattarella, e si è accompagnata anche a un mondo, guardate, ai partiti, non mi tirate per la giacca, non mi chiedete a me ogni volta di intervenire quando scoppiano queste quando scoppiano questi affari in sì. seguito alle intercettazioni, così lasciatemi in pace, curate un male che è gravissimo, tutti, anche Marzio Breda, che è il massimo interprete di tutti i Presidenti della Repubblica, ma anche di Mattarella, dice il Quirinale è sconcertato dalla, fra virgolette, modestia etica di magistrati che si prestano a queste pratiche. E io segnalo che, così, che tutti i giornali danno sì. grande, però non ne traggono conseguenza, né i giornali né la politica. E sì. sì, c'è ormai un giochetto che io ben conosco perché lo vedo tra le righe dei giornali. Quando Mattarella parla, fare tutti coprirsi il capo di cenere, poi voltare pagina e fare, quello che si vuole. Tant'è vero che se di interventi ne occorrono due, vuol dire che fra il primo e il secondo non si è fatto assolutamente niente. Comunque si è fatto molto poco, chiacchiere. Questo sul fronte della magistratura. Visto e poi, che stiamo parlando sì. della magistratura, c'è anche un altro fatto che registrano tutti i giornali, che Di Matteo ieri ha parlato alla Commissione Antimafia sul noto affare. Di Matteo è il magistrato, il più grande magistrato antimafia che oggi c'è in Italia, sotto scorta, adesso è membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ha parlato e ha raccontato che non solo Bonafede gli aveva offerto quell'incarico di capo del DAP e poi se l'ha rimangiato, ma Di Maio gli aveva anche offerto di fare il ministro e anche Di Maio se l'ha rimangiato. Tutti i giornali si interrogano su queste dichiarazioni di Di Matteo. Il giornale che in passato ha fatto di Di Matteo, ha contribuito di più alla costruzione del mito di Di Matteo, Il Fatto Quotidiano, invece ha questa notizia da poche righe. Walter Verini del PD. Quella è un'intervista interessante, quella sul Corriere della Sera. Dice, sono sciocchezze, sono, insomma, in fondo Di Matteo, se voleva denunciarlo, l'avrebbe denunciato due anni fa, ma la vera notizia è nel fatto che non esistono prove di un intervento mafioso o di qualcun altro sulla sua mancata nomina al capo dei DAP, quindi sono sì, testuale di Verini dice l'audizione ha confermato che non ci sono state nella scelta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria pressioni ed ambienti indicibili. Come lo ha confermato, gli chiede Virginia Piccolillo che realizza l'intervista di Matteo, ha detto che se ne avesse avuto contezza lo avrebbe denunciato, ma non lo ha fatto per due anni. Sono parole veramente bizzarre, nel senso che come lo ha confermato, dice, beh, se lui lo sapeva ce l'avrebbe detto prima, no? Veramente Di Matteo ha raccontato le cose che sapeva e ha posto delle domande molto precise, domande a cui occorrerebbe dare una risposta, sì. Non ha confermato niente, non sa nulla, anzi ha confermato che quando gli offrì la seconda carica, quello di direttore degli affari penali, il guardasigilli gli diceva no, guarda, questa la puoi prendere perché su questa non ci sono interferenze, non ci sì. sono pressioni, non ci sono veti, come a dire, su quell'altra ci sono. Però Verini, insomma, anche nell'ansia di comporre questa questione di non destabilizzare il governo, lo ha lasciato perdere. E prima facciamo così, siamo un po' in ritardo, andiamo al traffico e poi andiamo sui fondi, sulla questione dei fondi europei rapidamente e poi passiamo a tutte le questioni Covid, a partire da Napoli. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Ripartiamo dall'Italia e dai prodotti italiani. Con Drive Forward, nuova gamma Alfa Romeo Giulietta da 179 euro al mese. Zero anticipo e zero rate nel 2020. Da gennaio 18 rate da 179 euro, poi 72 rate da 288 euro. TAN 675, TAI GOT 44. Iniziativa valida fino al 30 giugno. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su alfaromeo.it. Mattino. Allora, caro Paolo, molto rapidamente sul tema dei fondi europei, il richiamo di Mattarella. Ha richiamato il governo perché gli ha detto dai, sbrigatevi a prendere delle decisioni sui fondi UE, perché loro stanno ritardando in maniera evidente, quasi comica, pur di non votare e non chiarire la faccenda del MES, dove i 5 Stelle hanno una posizione contraria e il PD ce l'ha favorevole. Poi nel frattempo, approfittando di queste lentezze italiane, cioè a pagina 3 sulla Stampa un articolo di Marco Biasolini, un vertice da fumata nera nella nuova proposta del Recovery Fund, meno miliardi per l'Italia, cioè l'Europa approfitta di queste lentezze italiane e intanto toglie miliardi dai fondi che deve dare l'Italia. Però la notizia del giorno, la vera seconda notizia del giorno, campeggia sul Mattino, sì, ed è questa Bolgia a Napoli per festeggiare la vittoria in Coppa Italia, sì. E oggi segnalerei queste cose. A proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è stata un'iniziativa sciagurata, sono impazziti di fronte a una cosa di questo tipo, anche perché, come ricordiamo tutti, uno dei grandi veicoli di contagio furono alcune partite che si giocarono non solo in Italia, una a Bergamo e una in Spagna, dove il contagio andò giù come un pazzo. Oggi segnalo che tutti i politici napoletani, a cominciare dal presidente della Camera Roberto Fico, dice ma non mi piace quella parola, sciagurati. Il sindaco dice insomma, bisognava celebrare la vittoria in Coppa Italia, certo, è stato un po' di caos. Anche gli scrittori napoletani sul Corriere della Sera, Maurizio De Giovanni dice ma la voglia di sorridere, di urlare, di fare i covi non è degna di un po' di considerazione. Io mi domando, è buffo come modo di immaginare. Cioè, certo. Fino a una persone che fino a una settimana fa avrebbero raccomandato, state tutti con la mascherina, distanti, eccetera, eccetera. Molto divertito su Repubblica che hanno fatto un confronto fra il virologo juventino, che Giuseppe Filippo Tarra, che ha detto deluso del risultato, ma hanno fatto bene a sfogare la gioia, il virologo juventino. A cui si contrappone l'infettivologo, supporter dei partenopei, ormai si dividono virologi. È così ormai. Rodolfo Punzi che dice bella vittoria, però dopo i sacrifici è stata una follia, l'editoriale più feroce contro lei, un editoriale di Luca Ricolfi sul Messaggero, che dice questo è un caos, un paese che fa queste cose e poi chiude un occhio quando vengono violate le norme, anche perché nel mondo, cioè, forse a Napoli adesso i contagi sono zero, ma nel mondo continua a esserci un allarme, teniamone conto, per precauzione, non per... E poi però noi abbiamo degli infettivologi, hai notato quanti virologi che dicono... Oggi è il giorno, direi, nel guardare le interviste, Paolo, oggi è il giorno dell'ottimismo, se così vogliamo chiamarlo, degli ottimisti. Da una parte abbiamo di nuovo Zangrillo, il ritorno di Zangrillo in una doppia pagina sul Quotidiano Nazionale, dall'altra parte il professor Remuzzi, che porta anche dei dati solidi di una ricerca che stanno facendo sulla carica virale che ormai ha il virus, che dice si è abbassata eccetera eccetera, però insomma la giornata nella quale... Sono convincenti, però anche loro forse dovrebbero tenere conto che non è una partita fra virologi pessimisti e virologi ottimisti. Questa è colpa nostra. Loro però non si sottraggono al gioco, cioè chi prende la parte dell'ottimista la fa per sempre, chi prende la parte del pessimista lo fa per sempre. Comunque invece mi ha molto colpito che sfidando il virus all'età dei 92 anni, il Papa emerito Benedetto XVI se n'è andato a Regensburg con un volo privato, lui è malatissimo, adesso è cieco da un occhio, e gira sul sedere a rotelle, insomma, ma rompe l'autoclusura, lo leggo su Il Messaggero, c'è un bell'articolo di questo, ma anche il Giorno Nazionale, il Resto del Carlino, ed è andato a trovare il fratello 96enne che è in punto di morte. Molto toccante il racconto di questo viaggio del Papa, sicuramente del fratello, l'ultimo viaggio, tutti ti hanno detto non lo fare, è pazzesco, è un rischio altissimo, ma lui ha voluto, tra l'altro lui voleva andare a abitare lì, adesso sì. Le indiscrezioni dicono. Il racconto qua di Nina Fabrizio, a pagina 16 della Nazione, del Giorno del Resto del Carlino, per il Papa Emerito, ormai cieco da un occhio, lucido di mente ma talmente debilitato da avere bisogno di un girello per deambulare, imbarcarsi su un volo aereo ha significato uno sforzo notevole, capace addirittura di incidere in modo importante sul suo fragile fisico, se non di comprometterlo addirittura. Quindi questo viaggio per andare a trovare il fratello. Molto rischioso, ecco, diciamo, non usiamo parole esagerate, lo dice anche Franca Giansoldati sul Messaggero, è un viaggio che lo espone molto molto. Molti rischi. Oggi registriamo, Paolo, la scomparsa di una donna di una grande dinastia, dei Kennedy. L'ultima dei 7 Kennedy, cioè degli 8 Kennedy. Sono tutti morti i fratelli del presidente degli Stati Uniti, ne era rimasta in viva solo una particolare, Jim Kennedy, che a un certo punto Clinton aveva voluto mandare come mediatrice in Irlanda negli anni 90 e lei incredibilmente, anche perché è noto i Kennedy erano una famiglia di origine irlandese, erano venuti negli Stati Uniti nell'Ottocento, incredibilmente riuscì a far fare la pace, insomma poi definì con understatement, io sono stata una rotellina, a far fare la pace all'ira con l'autorità inglese e irlandese, fece una mediazione, favorì un viaggio di Gerry Adams, il capo del Sinn Féin, negli Stati Uniti, insomma un personaggio molto importante che però forse la gente ricorda solo perché il figlio fu accusato di stupro, fu un famoso caso sui giornali alcuni anni fa, però fu assolto poi il figlio da questa accusa. Caro Paolo, chiudiamo qua, ti ringrazio anche per oggi, ci ritroviamo ovviamente lunedì alla solita ora intorno alle 7:30 per la rassegna stampa. Paolo Mieri, buona giornata e buon fine settimana. È già andato Paolo, è già andato. GR24, ci ritroviamo tra poco con Maria Latella, avremo ospite il vicepresidente di Confindustria Carlo Robiglio per parlare degli industriali, del rapporto con il governo, della situazione, delle richieste degli industriali e poi il famoso bonus vacanze. Lo volete chiedere, non lo volete chiedere? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate ovunque.